Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Entra in casa, le dico. Dammi la giacca. Siediti qui. Togli le scarpe, tieni le ciabatte, mettitele. Vieni in cucina che preparo il tè. Le metto davanti i biscotti così per un po' sta tranquilla. Infine mi siedo anch'io. La vedo alzare su di me uno sguardo perso. Mi osserva come da lontano e mi chiede: e la Luisa, che fine ha fatto? Mamma, sono io la Luisa. Sono Luisa Mazzetti, vivo a Premeno, in provincia di Verbania, è un piccolo paese sulle montagne del Lago Maggiore. Vivo con mia madre, da sola, sono una zitella, sono nubile. Sono stato a una specie di mercatino questo fine settimana. Non i mercatini di Natale, anche se a Milano ci sono mercatini di Natale, non bisogna per forza andare a Stoccarda o a Salisburgo per trovarli. Ma non era un mercatino di Natale. Tramite persone che conosco, e credo perché qualche anno fa ho fatto un programma in cui avevo venduto tutti gli oggetti della mia vita, sono stato invitato, e ringrazio ancora le persone che l'hanno fatto, ad una vendita molto particolare. In un appartamento di un vecchio palazzo di Milano, in zona Piazza Grande, per chi lo conosce, verso Linate, viveva un'anziana signora molto benestante, nel tipico appartamento da 200 e passa metri quadri, in quegli edifici d'inizio secolo dove adesso ti chiedono 5.000 euro al metro quadro per comprarlo. Questa signora ci viveva da sola e aveva, quando è mancata un paio di mesi fa, credo attorno ai 90 anni. Questa donna negli ultimi anni della sua vita si era dimenticata tutto, perché era stata colpita da quella malattia che colpisce moltissime persone anziane, che è l'Alzheimer, molto, molto banalmente. Insomma, si era dimenticata tutto, viveva ancora in quella casa, e quando è mancata i suoi familiari hanno deciso che volevano vendere questa casa, e volevano vendere tutto quello che c'era dentro. Potete immaginare che cosa c'era nella casa di una donna che per 90 anni, non so se ci aveva vissuto sempre in quella casa, però per quasi 90 anni aveva vissuto lì dentro. E vendevano tutto, ma veramente tutto. Vendevano i mobili, vendevano le stoviglie, i bicchieri, le posate, gli abiti di questa donna. E vendevano anche i libri. Io ci ho vagato un po' in questa casa per un'oretta e mezza, e tra i libri ho trovato dei suoi scritti. In particolar modo c'erano dei diari. E c'è questa cosa nella mia scarsa fantasia, ovviamente, il fatto che una persona che negli ultimi anni della sua vita non si ricordasse nulla e che avesse lì dei diari di quando era una bambina, mi hanno quasi arrapato, devo dire. E quindi ho deciso di comprare, perché erano in vendita anche quelle, un paio dei suoi diari di quando aveva, credo, 8-9 anni e faceva le scuole elementari. Ecco, voi immaginatevi, e ce l'ho davanti in questo momento, magari poi ci scatto una foto e la metto sul profilo del programma. Immaginate proprio un quadernetto piccolo con una copertina azzurra e un disegno di una bambina in copertina, con scritto il nome di questa donna, che non dirò, e poi diario. La scrittura è fittissima ed è proprio la calligrafia delle nonne, però quando sono bambine. E voglio leggervi un passaggio che è proprio il giorno in cui io sono stato in quella casa, però 87 anni dopo. Cioè, la pagina di diario che ho davanti è datata 9 dicembre 1924. Abbiamo appena avuto 2 giorni di vacanza. Domenica, giorno di Sant'Ambrogio, patrono di Milano, e lunedì, perché era la festa dell'Immacolata Concezione. La nostra insegnante ci diede poca lezione e poco compito. Il tema era: dicembre, quante cose? Io feci per disegno 2 vignette. Una rappresentava un albero di Natale con 2 bambini che camminavano e giocavano con i loro giocattoli, mentre la donna di servizio, la mamma e la nonna li stavano a guardare. L'altra rappresentava una nevicata e una bambina che sbriciolava il pane agli uccellini. Sono venuti un po' maluccio, ma via. Presto cominceranno le vacanze di Natale. Mi immagino che in quei giorni farò passare qualche bel libro nuovo e ne ammirerò le figure. Il mio diario finisce così. Procuro di farlo meglio un'altra volta. Ecco, questo pezzo è un pezzo di un diario di 87 anni fa, di una donna che si era dimenticata praticamente tutto negli ultimi anni della propria vita. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Ci sono delle puntate di questo programma che, proprio perché sono costruite sulle storie che voi mi scrivete e che continuate a scrivermi, sono più delicate di altre. Questa è proprio una di quelle puntate lì, perché Luisa ha deciso di raccontarci un pezzo della sua vita che riguarda sua mamma e che riguarda quella parte della vita di molte persone in cui improvvisamente, semplicemente, cancelliamo dei pezzi del nostro passato. Quindi questa puntata è dedicata a lei, è dedicata alla sua mamma, è dedicata anche proprio a quella parte del nostro cervello che ogni tanto si dimentica le cose. Lo fa in maniera poi casuale, in questo caso no, in questo caso questa è chiaramente una patologia, però capita ogni tanto che semplicemente vogliamo rimuovere delle parti del nostro passato e quelle parti ogni tanto invece ritornano fuori, magari a distanza di anni, e non si sa nemmeno il perché. Per esempio Francesco mi aveva scritto prima a proposito di questo tema sul profilo Facebook del programma: io avevo rimosso il periodo di dicembre del 94 in cui avevo occupato la scuola per i più nobili motivi studenteschi possibili. Non si capisce perché avesse rimosso l'occupazione. Un mese fa nella fabbrica dove lavoro è stato assunto un nuovo manutentore. Lui era in prima superiore, io facevo in quinta, e lui mi ha ricordato episodi della mia vita che avevo completamente dimenticato e di cui un pochettino mi vergognavo. 349-238-6666. Appunto, la puntata di oggi, vi dicevo, è delicata per quel motivo lì, perché parla sì di una patologia, ma perché parla di una parte del nostro modo di essere che ha a che fare strettamente con la nostra identità, cioè chi siamo noi quando ci dimentichiamo chi eravamo. Torniamo verso casa attraversando strade desolate. La temperatura è bassa. Intorno a noi tutto sembra grigio, triste. Nonostante sia un po' stanca dopo la passeggiata, lei parla. Continua a parlare. Per fortuna non c'è bisogno di risponderle. Le sue non sono domande, sono frasi che escono dalla sua bocca, seguendo una logica tutta sua. E così mi lascio andare ai ricordi. Quando ero ragazzina, questo era un ridente paesino di villeggiatura. Lì c'era un negozio di elementari, ora chiuso, per cessata attività. Qui c'era la macelleria, chiusa, per cessata attività. E là il bar, sempre circondato da una selva di motorini, dalle note dei jukebox che fuoriuscivano e dalle risate dei giovani che lo avevano eletto punto di ritrovo. Ora tutto tace, chiuso, per cessata attività. Su per quella via c'era un bazar, si trovava di tutto. In piazza invece il giornalaio, con articoli di cancelleria, chiusi. Per cessata attività. Volevo seguire le mie ambizioni, volevo fare altre cose, che qui è un piccolo paese, non è possibile fare niente. Mi piaceva Roma, per cui ho scelto Roma, e anche mi piaceva molto l'idea di farmi la mia vita da sola, lontano da mia madre. Questo posto non ha più la stessa faccia di prima, è un viso più cupo, più triste, più rassegnato. Le persone hanno volti diversi, sembrano non ricordarsi più chi erano, sembra che abbiano perso coscienza di quello che sono stati nemmeno troppi anni fa. La parola crisi risuona così spesso che ha quasi perso di significato, e poi crisi ce ne sono sempre state e sempre ci saranno, professionali, private, ma non per questo si chiude bottega e si parte, no? Questo posto sembra deserto, eppure il numero delle abitazioni è cresciuto a dismisura. Si è costruito ovunque, erodendo col cemento i campi, i prati, i boschi. Cos'è successo a questo paese? Io non lo so, non c'ero. Appena maggiorenne me ne sono scappata, via da qui, via da lei. Intanto il cielo si era annuvolato, la sento rabbrividire al mio fianco. Allora le chiudo bene la giacca, mi sfiro la sciarpa e gliela avvolgo attorno al collo. Lei sorride, soddisfatta. All'improvviso una domanda mi stringe la gola. Mi chiedo cosa sia successo a me. A me che dopo tanti anni mi ritrovo qui, con lei che si aggrappa al mio braccio, pesante come una zavorra. Che fine ha fatto la ragazza che ero? Forse ha chiuso per cessata attività. A piccoli, lenti passi, finalmente arriviamo a casa. Mi sono lasciata condizionare da tante cose e forse invece era necessario tornare qui per riprendere contatto con certe cose e ripartire in un certo senso, cosa che fortunatamente sembra che stia accadendo. Entra in casa, le dico, dammi la giacca. Siediti qui, togliti le scarpe, tieni le ciabatte, mettitele. Vieni in cucina che preparo il tè. Le metto davanti i biscotti, così per un po' sta tranquilla. Poi la tazza, il cucchiaino, lo zucchero, il latte. A me non metterlo, la prevengo. Lei, come ogni giorno, si stupisce. Ma non c'è bisogno di risponderle. E alla fine mi siedo anch'io e la vedo alzare su di me uno sguardo perso. Mi osserva come da lontano e mi chiede: «E la Luisa, che fine ha fatto?» «Mamma, sono io la Luisa». Lei fa un gesto vago e mi risponde: «Oh, scusami, ero convinta che stavo parlando con mia figlia». This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Be working for a paycheck, then waiting to win the lottery. Un paio d'anni fa ho letto una notizia struggente. Mi è tornata in mente dopo aver letto la storia di Luisa e di sua mamma. Era la storia di una senatrice americana, una donna, mi pare, di 70 anni, che raccontava di lei e del marito. Lei era sempre stata in politica, mentre il marito non ricordo cosa avesse fatto nella sua vita. Quello che so però è che lui era stato colpito da quella malattia che molti conoscono perché capita ad alcuni parenti anziani in famiglia, l'Alzheimer. Il marito di questa senatrice aveva completamente dimenticato chi fosse la moglie. Non legava nessun ricordo al suo viso o alla sua voce. Era come se per lui lei non esistesse più. Da quando era malato era ricoverato in un centro di assistenza per persone colpite da questa malattia. La moglie lo andava a trovare spesso, ma le sue visite erano totalmente inutili, visto che non riusciva a parlare con lui, perché lui non aveva niente da dirle. Poi un giorno lei arriva al centro e lo vede che passeggia nel parco, mano nella mano con una donna, anche lei ricoverata lì. Si erano conosciuti in quel posto e si erano innamorati, senza paura, senza consapevolezza dei loro passati o delle loro identità. E mi ricordo di aver visto una fotografia, un'immagine, in cui la senatrice, da lontano, osserva il marito a passeggio con questa donna. E nel suo sguardo c'era ancora amore e dolcezza, oltre che comprensione per un uomo che non si ricordava più di amarla. Ecco, questa storia secondo me risponde abbastanza bene alla domanda «Chi siamo nel momento in cui ci dimentichiamo tutto?». E la risposta è che non si può saperlo, ma di sicuro non siamo più quelli di prima. E purtroppo insieme a noi non lo sono più nemmeno le persone che ci stanno vicino. E la storia di Luisa è emblematica in questo senso, perché senza la madre che è consapevole di essere sua madre, forse nemmeno lei è più figlia. Cioè, il fatto che una persona con cui abbiamo una relazione non la ricordi più mette totalmente in crisi anche il nostro esserci o esserci stati in quella relazione. E la cosa più malinconica in queste storie di dimenticanza sta proprio nell'effetto che hanno in chi sta vicino. Perché non so che cosa accada nella testa di chi ha problemi con questa malattia, ma so bene quello che accade in chi subisce gli effetti di quella dimenticanza. La mia nonna paterna, che è mancata diversi anni fa, si ammalò di Alzheimer e ogni giorno perdeva un piccolo pezzo del suo passato. Come un grande affresco che lentamente si sgretola e ne crea degli altri. Si dimenticava delle cose che mi aveva detto, di noi, delle persone care, di quello che aveva fatto qualche ora prima o qualche anno prima. Si dimenticava perfino di aver lasciato il gas aperto, e quello poteva decisamente essere un problema. E ricordo di aver letto un articolo non di un neurologo, ma di un filosofo che parlava di questo argomento. Quindi non si addentrava in meandri scientifici, però analizzava solo gli aspetti umani e filosofici di questa questione. Parlava di un uomo che non si ricordava più nulla e sollevava proprio la questione di chi siamo noi nel momento in cui non ci ricordiamo chi siamo. E la sua conclusione era semplice, però era precisissima. Dal momento che il nostro corpo e il nostro modo di agire rimanevano sostanzialmente invariati, mentre spariva tutto il nostro bagaglio di esperienze, lui diceva che in quel caso non rimaniamo lo stesso uomo o la stessa donna, ma siamo ormai una persona diversa. Al 349-238-6666 mi chiedono cos'era quel pezzo di diario che ho letto in apertura. Quel pezzo di diario è un pezzo di un diario di una signora che è mancata qualche giorno fa e qualche tempo fa, di cui io ho comprato qualcosa, tra cui questo diario, ed era stato scritto quando lei era una ragazzina, e quella pagina risaliva al 9 dicembre del 1924. Non so di che anno sia esattamente la mamma di Luisa, quindi lo chiedo direttamente a lei. Pronto, Luisa? Sì, ciao, è del 1929. Del 29. Beh, come stai innanzitutto? Già che così, tutto a posto? Chi? Io, lei? Tu, Luisa, come stai tu? Io sì, sto benone, in questo momento sto benone, grazie. Dove sei? Sei in casa? No, in questo momento sono a Roma perché domani debutto uno spettacolo che comprende un monologo che ho scritto io quest'estate, Donne in breve si chiama, Teatro Artificio di Roma. Ma scusami Luisa, allora facciamo un passo indietro, così raccontami un attimo tu, qualche pezzo della tua vita, visto che da quello che ho capito dal tuo racconto è che tu sei tornata a vivere a casa, giusto? A vivere a casa, sì. Che è Verbano Cusio-Ossola, giusto? Sì, Verbano Cusio-Ossola è un bellissimo paese per andarci in vacanza, sul lago, è molto bello. E vivi con tua mamma adesso? Sei tornata a vivere con lei? Vivo con mia mamma, sì, adesso sono qui solo per questo spettacolo. E prima invece, partiamo da quando te ne sei andata da lì? Me ne sono andata e sono venuta a Roma, uh-huh. Ho fatto l'attrice per una decina di anni, dopodiché ho iniziato a scrivere, ma comunque... continuavo la mia vita qui, sì. E poi lei, sono un insieme di cose, non è così semplice e così veloce da spiegare, mm-hmm. Ma insomma lei non poteva più stare da sola e quindi me ne sono occupata io. E con chi è adesso tua mamma? In questo momento con una badante. Ah, ok. Altrimenti tu stai tutto il giorno con lei? Sto tutto il giorno, tranne appunto questi momenti in cui viene questa badante, in genere viene 4 ore al giorno. Se senti, no, sì, è del 29, quindi la matematica non mi aiuta mai. 82 anni. Scusami, 82? Sì. Senti, ma e lei non si ricorda di te? No, di me si ricorda, ma non si ricorda esattamente in che relazione siamo. Molto spesso crede che siamo sorelle, anche se lei non ha mai avuto una sorella, uh-huh. Oppure mi riconosce come una persona di famiglia, sa che soprattutto mi riconosce come la persona a cui affidarsi. Ah, ok, quindi c'è un rapporto di fiducia con te, quantomeno. Sì, anche sì. Senti, da quanto vivi questa situazione con lei? 3 anni. E la prima volta che è successo che una persona cara, forse direi la più cara in assoluto, o tra le più care come la propria madre, in qualche modo non ti riconosce, qual è la reazione? Beh, io ero abbastanza preparata perché l'ho seguita abbastanza dall'inizio della malattia, mi sono subito informata, i medici sono stati molto bravi, mi hanno spiegato tutto, quindi ero abbastanza preparata alla cosa. Però certo c'è un attimo di sbandamento, però poi va bene così. Senti, in realtà quello che ti dicevi tu è vero, io non sono più sua figlia, in realtà sono più sua mamma in questo momento. Senti Luisa, poi ti saluto, dimmi velocemente che cos'è lo spettacolo per cui sei lì, la cosa che hai scritto. Sì, ho scritto quest'estate un monologo su Vittorina Sandri, che è stata campionessa di motociclismo negli anni 20, sì. E adesso è entrato a far parte di questo spettacolo che si chiama Donne in breve, comprende altri 2 monologhi diversi con altre attrici. Ma tu lo reciti, no? L'hai solo scritto? Io l'ho solo scritto, c'è un'attrice che è Claudia Frisone che lo recita. Sì. Luisa, ti ringrazio moltissimo per le chiacchiere e per il tuo racconto. In bocca al lupo per lo spettacolo. Che crepi, grazie. Ciao, grazie. Saluta tua mamma. Ciao. Sì. Voi siete qui. È veramente molto bella l'illustrazione che c'è oggi sulla pagina di Voi siete qui sul sito di Radio 24, andatevela a vedere, dedicata proprio alla puntata scritta e raccontata da Luisa a proposito della sua mamma. È tutta a tutti i colori del marrone, della color sabbia, del bianco e del nero, e ci sono 2 figure che sono una madre e una figlia che si trovano lungo una strada, potrebbe essere Bologna, no? Perché ha i portici. La cosa molto interessante è che è tutta in prospettiva e c'è una luce che parte dal fondo, illumina le 2 figure e proietta un'ombra lunghissima per terra. 349-238-6666. Ringrazio tutte le persone che scrivono i messaggi al 349-238-6666, appunto, di solidarietà nei confronti di Luisa, e ringrazio anche quelli che riconoscono la delicatezza di alcune puntate come quella di oggi. Per esempio, non si firma, mi dice: siamo in tante Luise, io ho lasciato ora mia madre nella città di pianura dove sono nata e l'ho lasciata con lo smarrimento nei suoi occhi, e sto tornando nella città di mare dove sono madre e moglie, vivo due vite e ho già due memorie e spesso sono altro da me. Mia madre mi ha chiesto di salutare sua figlia, cioè io. E poi invece, sapete, vado pazzo per i messaggi fuori contesto, e anche nelle puntate delicate non riesco a fare a meno di leggerli, e quindi buonasera Barisoni. Ma non ci vuole tanto, ma comincia alle 17 Barisoni, dai, comincia alle 5 Sebastiano, non è che, vabbè, buonasera Barisoni. Gradirei che, essendo voi una radio prevalentemente economica, perché non parlate mai dell'autotrasporto? Ma se ne parla dell'autotrasporto anche? No, Paolino, ogni tanto si parla di tutto alla D24. Buonasera Barisoni. Comunque mando, girerò il messaggio a Sebastiano, se no glielo lascio qui in bella vista, così quando arriva alle 17, guarda, la prima roba di cui parla secondo me stasera è l'autotrasporto, che non è il teletrasporto, proprio l'autotrasporto, è autotrasportatori. A gennaio faremo la rimpatriata dei maturi del 91, 20 anni dopo non ricordo più chi ero, però questo è un altro tipo di dimenticanza, direi. C'è un altro passaggio magnifico di questo diario che ho trovato, di questa signora del 1924, cioè no, lei non era del 24, il diario del 1924, ed è, va bene così, va bene così, ed il giorno è 16 dicembre 1924. Oggi dopo pranzo abbiamo fatto festa alla nostra direttrice. Appena entrata abbiamo tutte detto mille felicitazioni. Poi venne una bambina vestita da angelo e recitò. In seguito ci fu un canto e ci fu una recita di alcune bambine in francese. Poi ancora canto. Le bambine che avevano finito dei lavori li presentarono. Anche dei fiori le furono offerti. Ed ella ci ha pure ricambiato con una bella immagine. Mentre ce la dava diceva: siete di buon volere, che bel pomeriggio che ho passato. Credo che ve ne leggerò altri di questi pezzi, rimanendo chiaramente molto vago, perché arriva fino a maggio, fino a giugno del 25, quindi è il diario intero di un anno, perché alla fine quello che faccio qui non è raccontare diari, è solo raccontare dei pezzi di vita, però quel pezzo di vita di fatto racconta un diario. Quando abbiamo letto la storia di Luisa e di sua mamma, sia a me che a Tiziano è venuto in mente un testo cardine della neurologia, anche se in realtà poi è un testo di narrazione, è un testo divulgativo, che probabilmente conoscerete anche perché il nome è molto particolare. Il titolo è L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. L'autore è Oliver Sacks, che è appunto un neurologo americano, che però viene letto ampiamente, non solo da esperti, da medici o da neurologi. È una raccolta di storie, di per lo più di problemi psichici e neurologici. C'è una di queste storie, la dodicesima, si chiama Una questione di identità, e racconta la storia di quest'uomo che si chiama Thompson, che soffre di piccole amnesie, e la cosa che fa per evitare di caderci in questi baratri di vuoto è inventarsi delle storie, e quindi a tutte le persone che incontra racconta storie come se fosse veramente un cantastorie, al punto che tutte le persone che vengono interpellate dai medici che hanno in cura questo signor Thompson lo descrivono come un istrione, come uno che è molto simpatico, un comico nato. Di fatto quello nasce da un problema, nasce dal fatto che lui si dimentica dei pezzi della sua vita e quindi li riempie di storie. Il signor Thompson era costantemente disorientato, costantemente sull'orlo di abissi di amnesia, che però scavalcava agilmente lanciandosi in chiacchierate, fantasie di ogni sorta. Per lui però non erano fantasie. Per lui erano il modo in cui all'improvviso vedeva o interpretava il mondo. Una volta, ad esempio, il signor Thompson uscì a fare un giretto. All'uscita principale diede il nome di Reverendo William Thompson, chiamò un taxi e si prese un giorno di libertà. Il tassista con cui parlammo in seguito disse di non avere mai avuto un passeggero così simpatico. Il signor Thompson gli aveva raccontato una storia dopo l'altra, storie personali, straordinarie, piene di avventure fantastiche. Sembrava che fosse stato dappertutto, ha detto il tassista, che avesse fatto di tutto, incontrato tutti. Stentavo a credere che in una sola vita si potessero fare tutte quelle cose. E noi gli rispondemmo: non è esattamente una sola vita. È una faccenda molto strana. È una questione di identità. Il fatto è che ognuno di noi ha una storia del proprio vissuto, ha un racconto interiore, la cui continuità, il cui senso, è la nostra stessa vita. Si potrebbe dire che ognuno di noi costruisce e vive un racconto, e che questo racconto è noi stessi, è la nostra identità. Se vogliamo sapere qualcosa di un uomo, noi chiediamo qual è la sua storia vera, intima, poiché ciascuno di noi è una biografia e quindi è una storia. Ognuno di noi è un racconto peculiare, costruito di continuo, inconsciamente da noi, in noi e attraverso di noi, attraverso le nostre percezioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre azioni e, non ultimo, il nostro discorso, i nostri racconti orali. Da un punto di vista biologico, fisiologico, noi non differiamo molto l'uno dall'altro. Storicamente, come racconti, ognuno di noi invece è unico. Per essere noi stessi dobbiamo avere noi stessi, possedere, se necessario ripossedere, la storia del nostro vissuto. Dobbiamo ripetere noi stessi, nel senso etimologico del termine, rievocare il dramma interiore, il racconto di noi stessi. L'uomo ha bisogno di questo racconto, di un racconto interiore continuo, per conservare la sua identità. Io continuo a pensare che ci voglia un po' di coraggio e un po' anche di sfacciataggine a prendere un pezzo della propria vita e buttarla su una pagina semplicemente perché un tizio dall'altra parte della radio ti chiede di farlo. Ed è per questo che sono estremamente grato alle persone come Luisa, che tutti i giorni continuano a mandare i racconti della loro vita, e in particolar modo racconti come quello di oggi. Grazie a lei, grazie a Tiziano Bonini, a Paolino Corleoni, a Stefania Tagliaferri e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Luisa e parlava di dimenticanze. Quella di domani invece è la storia di Guglielmo e parla di partire bene. Ecco, ora è il momento di dare il colpo finale e sparare tutto. O meglio, sarebbe il momento. Ma il mese di allenamenti solo per la staffetta, malignamente, presenta il suo conto. Improvvisamente i polpacci si riempiono di acido lattico e le gambe diventano due pezzi di marmo. Non riesco più ad alzare le ginocchia come prima e l'assetto di corsa perfetto lascia il campo ad un arrancare, da finale di maratona alla Dorando Petri.